Una sorella convertita da diversi anni mi fece una domanda inaspettata. Ma LROC, è proprio bisogno di studiare così tanto la Bibbia? Non è sufficiente essere credenti, non basta l'amore che è la virtù per eccellenza. Lì per lì rimasi di stucco perché la sorella aveva messo in discussione una abitudine che i credenti evangelici hanno sempre avuta. Così in quella situazione di momentaneo smarrimento mi sono messo a riflettere e a considerare se sia lecito e giusto impiegare tanto tempo nello studio della parola di Dio, se la conoscenza biblica sia indispensabile. A parte l'aspetto religioso, l'uomo è nato per conoscere, per imparare. La creazione stessa ce lo insegna. Si nasce senza alcuna conoscenza ed esperienza della vita. Si frequenta la scuola per imparare a leggere e scrivere, in seguito si impara un mestiere, ci si sposa e si deve imparare come convivere, si hanno dei bambini e con la pratica si apprende il modo migliore per rapportarsi con loro. Si convive con altri e quindi si deve conoscere il giusto comportamento da tenere. Il detto «Nessuno nasce maestro» è quanto mai veritiero. Un poeta scrisse «Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Sì, la possibilità di apprendere, di conoscere, è un dono che Dio ha fatto al genere umano. Se questa è la vocazione e l'imperativo naturale dell'uomo, perché ciò non dovrebbe essere valido anche nel campo spirituale? Se l'uomo deve imparare quali sono i comportamenti giusti, perché non dovrebbe impiegare lo stesso impegno per conoscere Dio e la sua volontà? Non ci dice la Scrittura che chi crede nasce di nuovo e diventa come un piccolo fanciullo? Se colui che crede è ignorante come un piccolo fanciullo, non dovrebbe avere lo stesso atteggiamento nei confronti di Dio come li ha per i bisogni vitali? Consideriamo quindi come la conoscenza sia un elemento indispensabile per rendere fruibile ogni altro dono? 1. Non basta l'amore. Poiché l'Apostolo Paolo ha affermato che ogni servizio cristiano è inutile se non è motivato dall'amore, molti pensano, similmente alla sorella che mi ha posto la domanda, che se ci è l'amore, non necessita altro. L'importante è amare. E questa è in fondo la filosofia che serpeggia non solo nel mondo, ma anche nei pensieri segreti di tanti credenti. A conferma di ciò si cita 1 Corinzi 8, 1. La conoscenza gonfia, la carità edifica. Ma, come sempre, ogni affermazione va valutata nel suo contesto. Paolo si riferiva a 2 tipi di credenti, i forti e i deboli. I forti erano coloro che avevano conoscenza. I deboli coloro che non l'avevano. Colui che conosceva peccava perché non agiva con amore. Il debole, non avendo un appropriato discernimento, condizionava la coscienza del forte. Così mentre il forte peccava per mancanza di amore, il debole peccava 2 volte, perché era ignorante, e metteva in difficoltà il forte. La convivenza cristiana è già difficile di per sé, se vi si aggiunge l'ignoranza. Si comprende la ragione di tanti disaccordi e divisioni. Come una catena è forte in proporzione al suo anello più debole, così è della convivenza. Sono i deboli, gli immaturi, i bambini in Cristo, che stabiliscono il livello spirituale di una chiesa, di un rapporto fraterno e umano. Le persone mature e adulte, spiritualmente e psicologicamente, sono chiamate ad aiutare, sostenere e sopportare i deboli. Romani 15, 1. Proprio per questo è indispensabile l'istruzione nel regno di Dio. Si può fare tanto male. Proprio perché a volte ci è solo quello che noi chiamiamo amore. Dico chiamiamo amore. Perché se fosse il vero amore, quello cioè che comprende anche la conoscenza, non si creerebbero situazioni sbagliate. Paolo ha sempre invitato i credenti a crescere nella conoscenza. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Filippesi 1, 9 e 11. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore, per tutti i santi non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente e illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e quale è verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza. E da questi brani è evidente che Paolo non era soddisfatto che i credenti avessero solo l'amore di Dio. Egli pregava affinché tutti i figli di Dio fossero ricolmi e abbondassero nella conoscenza della volontà di Dio. Questo non tanto per svergognare quelli che ne difettavano, quanto perché i credenti potessero camminare in modo degno del Signore, affinché potessero essere limpidi e irreprensibili, pazienti e perseveranti, e perché potessero conoscere pienamente il loro Salvatore. Risulta evidente, dalla preghiera di Paolo, che l'amore non è sufficiente per ottenere tutto ciò. Non si può essere irreprensibili solo con l'amore, come non si può conoscere il Signore solo con un cuore che arde. In effetti, molti errori commessi dai credenti non sono dovuti alla carenza di amore verso Dio e il prossimo, ma ad un discernimento insufficiente. Paolo perseguitava i cristiani non per mancanza di amore verso il suo Dio, ma di discernimento. Dopo la conversione scriverà con tanta riconoscenza: «Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità». 1 Timoteo 1,12-13. Per ignoranza si possono commettere i più gravi crimini. I giudei fecero uccidere il figlio di Dio, Atti 3,17. Gli uomini vivono nel peccato, Efesini 4,18. Una madre diventa possessiva verso il figlio impedendogli di realizzarsi. Un padre per l'ambizione di educare bene i suoi figli li picchia a sangue. Un anziano tiranneggia una chiesa per il desiderio di educarla sulla santità. Il fatto tragico, scrive Paul Tournier, è che vi sono brave persone, animate da buone intenzioni, coscienziose, perfino scrupolose e generose, che si sforzano di agire per il meglio e che fanno torto ad altri, senza saperlo e senza volerlo, soltanto a causa del loro successo o della loro superiorità. Ero presente ad una conversazione tra due sorelle che parlavano della loro madre ultra novantenne, una donna di fede e di raro amore. Aveva ridato senso alla vita a suo figlio che era rimasto inabile dopo un incidente in montagna, ma il suo amore possessivo aveva impedito una sua totale guarigione e ai familiari di poterlo aiutare. Una di queste sorelle ad un certo punto esclamò con profondo dolore: «Non comprendo perché Dio la mantenga in vita». È terribile arrivare a questi estremi, ma la realtà della vita ci insegna che un amore possessivo o non supportato da una giusta conoscenza arriva a portare l'amato ad avere il desiderio della sua morte. Non potendo attribuire questo malvagio comportamento alla mancanza d'amore, perché cadrei in un giudizio che spetta solo a Dio, io l'attribuisco all'ignoranza. Solo chi non si compiace di possedere solo l'amore e trema di fronte all'ignoranza può crescere nella conoscenza. 2. Non basta la fede. La fede è una virtù talmente importante che l'autore della lettera agli Ebrei afferma che senza di essa non possiamo piacere a Dio. Possiamo fare qualsiasi cosa straordinarie, ma se non siamo motivati dalla fede non possiamo piacere a Dio. Non basta dunque la fede per piacere a Dio? Perché dunque cercare la conoscenza? Come per l'amore, la fede è importante ma non è sufficiente. La scrittura al riguardo è specifica: «Voi, Per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla l'autocontrollo, la conoscenza, alla conoscenza vostra fede, la virtù, alla virtù, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. 2 Pietro 1 5-10. L'Apostolo Pietro ci propone una vita cristiana energica, vigorosa, attiva. Il cristiano non deve attendere stimoli nuovi per agire, ma cosciente del suo impegno deve aggiungere alla fede altre qualità cristiane. La fede è il trampolino di lancio mediante il quale il credente fornisce abbondantemente la virtù e la conoscenza. La conoscenza è necessaria dopo la fede. Se queste 8 qualità cristiane, cioè la fede, la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno, l'amore, sono viste come formanti una scala, è evidente che la fede è il primo gradino. E senza gli altri gradini non si arriva alla virtù per eccellenza, l'amore. La conoscenza è dunque indispensabile per conoscere il nostro Signore Gesù Cristo e per non inciampare nel cammino cristiano. Proprio per mancanza di conoscenza, ognuno di noi all'inizio della sua conversione ha fatto i suoi errori. Si è presentato l'Evangelo con l'impeto dell'acqua, che fuoriesce da una diga rotta. Si è testimoniato con tale aggressività che gli uditori erano tentati di scappare. Eravamo convinti che le nostre convinzioni coincidessero con quello del Signore su quasi tutti gli argomenti. Non potevamo quindi che essere portatori della torcia del sapere. Se in seguito, beati quelli che lo hanno compreso, ci siamo resi conto dei nostri errori, non è stata certamente la fede che avevamo, ma la luce della conoscenza che ha palesato le tenebre della nostra ignoranza. 3. Non basta lo zelo. L'Apostolo Paolo ha paragonato la Chiesa con un corpo che trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Efesini 4:16. La Chiesa ha dunque bisogno di persone attive, zelanti. Se nella Chiesa tutti i credenti fossero zelanti, non risolverebbero le comunità tutti i problemi che si presentano. Perché dobbiamo impegnarci nello studio quando abbiamo bisogno di persone attive, premurose, produttive? Certo, essere impegnati in una Chiesa e nell'opera di Dio è importante, ma senza un'adeguata conoscenza si va allo sbaraglio. La scrittura è esplicita. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Proverbi 19:2. Lo zelo può essere paragonato al vento che soffia sulle vele di una barca che ha per timone la conoscenza. È vero che se il vento non gonfia le vele della barca non si va da nessuna parte, ma è altresì vero che il vento che soffia sulle vele di una barca senza timone la fa rovesciare. Proprio per questo, molti credenti giovani nella fede pieni di buone intenzioni e di zelo hanno fatto naufragio nella vita cristiana. Con tanta dedizione si sono impegnati in molte attività, hanno assolto incarichi importanti, hanno umiliato con il loro zelo credenti che per ragione di anzianità avrebbero dovuto essere loro di esempio, ma senza un'adeguata istruzione hanno inciampato, o a causa del loro orgoglio, o per un completo esaurimento dello zelo che li caratterizzava. Per questo, con saggezza, Paolo ordina che l'anziano non sia convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Il principio di non caricare troppo di pesi chi è appena convertito è un atto di amore e di saggezza. Ho conosciuto varie persone che, mosse dallo zelo più sincero, si sono impegnate nell'insegnamento, ma privi di un'adeguata preparazione ed esperienza, in breve tempo hanno lasciato l'incarico. Come sta scritto, è pericoloso per l'uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo aver fatto un voto. Proverbi 20:25. Il riflettere, significa ponderare, prendere atto, fare tutte le valutazioni possibili, in definitiva discernere, conoscere. Sì, la necessità di conoscere è impellente, al punto che un popolo religioso come quello di Israele ha perso la sua identità e ha fallito la sua missione per mancanza di conoscenza. L'Apostolo Paolo, ricordando i suoi connazionali e rivolgendosi ai credenti di Roma, scrisse: «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge, per la giustificazione di tutti coloro che credono». Romani 10, 1 a 4. Non si può mettere in dubbio lo zelo degli israeliti, ma fallirono lo scopo della loro vita, perché non avevano un'adeguata conoscenza. L'Apostolo Pietro rappresenta certamente uno dei credenti più zelanti. Anche lui amava Gesù con tutto il suo cuore e lo voleva servire con tutte le sue forze, ma Gesù ha dovuto pregare per lui. In questo modo, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Luca 22, 31-32. La conversione di Pietro consisteva nel prendere atto del suo carattere, nel rendersi conto della sua fragilità, cose che l'amore, la fede e soprattutto lo zelo non erano in grado di far comprendere. Anzi, da sole queste virtù inibiscono le altre e ci inducono a lavorare per Dio con il limite della nostra incompetenza. Come un atleta dobbiamo miscelare e dosare intelligentemente ogni nostra energia per poter raggiungere il premio. Non è sufficiente lo zelo per vincere. Non basta la potenzialità, ma ogni altra capacità deve essere coniugata con la sapienza. Non spegniamo dunque lo zelo, ma annaffiamolo con il discernimento, perché esso è l'olio che lubrifica il motore della vita. Il valore della sapienza. Non sono sufficienti quindi le virtù fondamentali come l'amore, la fede, lo zelo per essere adatti al regno di Dio. Se ad esse non aggiungiamo la conoscenza, sono destinate ad essere mine vaganti che distruggono tutto ciò che toccano. Per questo è più che mai attuale ascoltare il rimprovero di Dio e la sua sentenza. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Osea 4, 6. È vero che Dio è misericordioso e non tratta l'uomo secondo i suoi peccati, ma è altresì vero che è severo con chi non vuole ascoltare, imparare. Secondo la Scrittura, quando una persona non vuole prestare attenzione all'insegnamento diventa stolto, perché la stoltezza non è solo mancanza di conoscenza, ma soprattutto ribellione contro Dio. Con chi ha un tale comportamento Dio non può fare altro che lasciarlo in balia delle sue scelte. Se non ci è peggior sordo di chi non vuole sentire, similmente non ci è neppure condanna peggiore per chi assume questo atteggiamento. Darai loro indurimento di cuore, la tua maledizione. Lamentazioni 3, 65. Prendiamo dunque seriamente la parola di Dio. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele: perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Proverbi 1, 1 a 4. Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. Proverbi 13 e 16. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Colossesi 3, 9, 10. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Isaia 33, 6. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data, Giacomo 1, 5 a 6. Applicati col massimo rigore per ottenere la saggezza e la conoscenza promesse da Dio, quella conoscenza che è una ricchezza di liberazione, che ti permette di vivere saggiamente, che si manifesta in una buona condotta, che ti è stata promessa. Dio non ti ha promesso salute, successo, beni, ma la saggezza che ti conquista di conquistare il mondo circostante e di far armonizzare tra loro conoscenza, volontà e azione. Conosci la parola di Dio, ma meglio ancora, conosci il Dio della parola, poiché la sapienza è una persona, Gesù Cristo. In Lui non abbiamo solo la redenzione, il perdono dei peccati, Colossesi 1 e 14, ma anche la giusta miscela delle virtù cristiane e della consapevolezza delle nostre nature. Ancora una volta Pascal ha mirabilmente riassunto questa verità nella seguente proposizione: la conoscenza di Dio senza quella della nostra miseria produce l'orgoglio. La conoscenza della nostra miseria senza quella di Dio produce la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo rappresenta il giusto mezzo, perché troviamo Dio e la nostra miseria. Febbraio 1980 all'Ero.